Io non amo usare i microfoni in questa sala perché tendiamo sempre a fare degli incontri ravvicinati, però ci aspettiamo del rumore per le parti, quindi questa volta ci siamo armati, ci siamo estesi. Tecnologia significa questo, significa estendersi. Tecne nasce, è proprio, nasce da questa cosa qua. Gli arnesi sono delle estensioni, sono delle tecnologie. Tenete conto che tecnologia l'alfabeto che io sto esercitando. Le forme date allo spazio pubblico sono tecnologie. Il teatro è incredibile, ma vedo 3.000 anni fa è stata una nuova tecnologia. Nella nostra evoluzione ce ne siamo inventati un bel tot di tecnologie. Quelli digitali non sono certo le prime e non saranno niente. Ma mi piace poter pensare che questa transizione che stiamo vivendo di sistemi ci possano essere utili per prepararci al salto quantico. Ma io non apro quella porta e mi fermo qua, se no? E certo che il digitale ci sta predisponendo a rivedere il nostro rapporto con lo spazio e il tempo, con le cose, le relazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è fisiologico che una componente non solo abbia, ma decisionale del sistema, faccia di tutto per far finta di niente, per far perdere il tempo, perché sa che ha molto da perdere. Il libro di Antonio Favolini tratta proprio di questo guaio, di questo dialogo che c'è tra chi, diciamo i decisori, ma non sono solo i decisori, perché dice i media, non sono decisori, è gente che gestisce potere e lo esercita secondo visioni economiche, no? I grandi giornali, i modelli editoriali, ma non solo, quando parliamo di concentrazioni dei media, insomma c'è tutto un mondo che ha fatto di tutto in questi ultimi decenni, facciamo due, anche se sono di tutto, in questi ultimi due decenni, per non affrontare il problema. Quale? L'evoluzione digitale. Uso il termine evoluzione che non è innovazione, l'evoluzione è un concetto più ampio, molto più articolato. L'evoluzione comporta come l'evoluzione della specie, trovare il modo per esercitare opportunità. Dentro questo ci sono tutte le criticità di questo mondo, infatti è che questo quadro è prodotto che c'è una componente di società che ha fatto di tutto per non affrontare il problema e confonderlo, e qui arriviamo al concetto di rumore. C'è del rumore, c'è troppo rumore intorno allo sviluppo del web, dei social, no? Dando di colpa di tutto, compreso il bullismo, come se il bullismo non esistesse, non preesistesse, alzare il bullismo, no? Anzi, ce n'era più prima, sì. Molti maschietti con testosterone in corpo hanno fatto dei grandi guai, no? Ed era quasi normale che un ragazzino prendesse in giro una ragazzina 40 anni fa. Adesso iniziamo a porci il problema che questa cosa non è tollerata, ok? Bon. Quindi il guaio comporta, perché c'è una componente di società che ha tergiversato colpevolmente, non ha saputo affrontare questo, ma compresi i sistemi educativi, poi magari ne parliamo. C'è un'altra componente di società che ne sta godendo e che inizia a caricare a pallettoni per rastrellare tutte le rastrellabili rispetto a una componente ampia di società che sta arrivando inadeguata dentro questo futuro digitale che è scritto a questo presente. William Gibson diceva: il futuro è già qui, è solo mal distribuito. Il futuro è già qui da un pezzo, solo che i troppi non hanno capito e i troppi hanno fatto di tutto per non farlo vedere. Nel frattempo c'è quest'altra componente di società. Usiamo un termine generico quanto basta, poi magari Antonio ci aiuterà a declinare questa parola, questa entità, le tecnocrazie, che non sono per forze creative, gente che vuole fare i soldi, eh? Se uno vuole fare i soldi ci si può negoziare, perché un po' di quei soldi che fanno li possa distribuire, però tra di più giocare la partita, se no non è per niente scontato. Ci sono quelle tecnocrazie che stanno creando un futuro tecnologicamente direi inventato, incorporato, dove siamo tutti inseriti dentro un loro disegno, dentro un grande gioco eterodiretto. C'è questo rischio, è iscritto, lo vediamo quasi tutti, c'è molta paranoia per questo futuro eterodiretto. Io, e anche Antonio, penso anche Lorenzo, siamo convinti che la partita non è chiusa, è ancora da giocare, forse non per molto. In che termini? Ecco, io qui mi fermo, perché il libro di Antonio, Oltre le rupe, ma questa non può essere la presentazione di un libro. No, no, no, no. Non le faccio mai, non l'avrei mai fatta. Detto, prendiamo il libro come un buon pretesto per ragionare insieme. La parte, mi sento qui apposta, per poter accogliere un po' delle vostre parole dirette, quindi alzatevi, con dei gessetti a lasciare un po' delle parole chiare che ci possono aiutare a lasciare il segno. Quindi ritorno ad Antonio, che ha scritto questo libro piccolo ma bello denso, è veramente uno scrigno, ci sono pieno di bocole. Quando dico scrigno, sto dentro delle parole dentro le parole, molti neologismi, già ne è emerso uno che ci ha lanciato Frate Marzano quasi come una sfida, perché lei da scenarista, da una che si occupa di futuro digitale e non teoricamente, perché lei è una delle figure decisionali, almeno per questa città, dell'assessore all'innovazione, la Roma semplice di questo comune di Roma, di Roma capitale, ed è qui con noi a ragionare insieme per capire dove andiamo a parare, perché la scommessa è una scommessa antropologica. Ma ne parleremo tra un po', io qua sentiamo Antonio che ci dia una spinta, una impressione. Poi con Lorenzo iniziamo a conversare, a ragionare su alcuni di questi concetti, alcune cose le ho già scritte, poi magari le scriverò e le scriveremo magari anche altre. Guarda, quando hai citato il caso del cyberbullismo, a proposito di neologismi, mi è venuto in mente che io dopodomani devo andare a Trieste per questo grande evento che si chiama Parole Ostili, dove il cyberbullismo è uno dei grandi gridi d'allarme che contiene all'interno della parola praticamente tutto quello che hai detto, anche se a livello forse esemplificativo, e cioè una parola che già dà tutte le risposte. Se oggi abbiamo il bullismo è a causa di una evoluzione tecnologica, e oltre a quello che giustamente Carlo sottolineava, cioè che il bullismo esisteva da prima, ragionando per assurdo, in questo modo, quando è stato inventato l'Ampex, cioè il videoregistratore, nel 1956, e le prime telecamere con delle ruote sotto, sempre diciamo più o meno con il sistema Farnsworth, quindi negli anni 40, il sistema elettronico, il tubo catodico, e oggi potremmo dire che a quell'epoca, se non si è esercitato l'Ampex bullismo, è semplicemente perché non c'era accesso comune a quella tecnologia che era nelle mani di pochi. Eppure, non appena è stato inventato il camcorder Sony Betacam, è nato un format televisivo in prima serata, Le Iene, che si fonda su un atto di bullismo che viene compiuto tutti i giorni a danni di persone che però non sono le vittime, sono i carnefici. Ecco, perché quello... Pronto? Sì. Allora, perché quello non lo chiamiamo telebullismo in prima serata? Perché a proporcelo sono proprio i proprietari di questo racconto dominante, che tende a identificare in una particolare evoluzione tecnologica la colpa di un male della società. E ragionando nello stesso modo potremmo dire che nel 69, quando tutti i quotidiani titolarono che a uccidere 19 agricoltori nella Banca Nazionale dell'Agricoltura animava era stato un ballerino anarchico, allora l'avrei voluto chiamare analog fake news. Eppure quando diciamo fake news oggi diamo per scontato che la tecnologia abilitante di questo problema sia una evoluzione tecnologica ultima. E potrei andare avanti tutte quelle esplosioni di violenza, di arroganza, di ignoranza che Internet ci rivela e che vengono invece considerate la causa. Allora, il motivo di questo rapporto dominante, oltre a quelli che Carlo vi ha già raccontato, sta nella natura stessa del prodotto dell'industria che si sta difendendo. L'industria dei media produce messaggi, quindi diciamo che il prodotto lordo, il prodotto grezzo, è esattamente lo strumento con cui ci si protegge dall'unico vero grande pericolo, che è il pericolo percepito dall'industria stessa, e cioè di una nuova, diciamo, evoluzione tecnologica che sposta gli occhi delle persone da un luogo, quello dove si svolge il loro business, a mille altri luoghi dove si svolge tragicamente, come sappiamo, il business di qualcun altro, non quindi quella internet libera dai condizionamenti, dai modelli di business di cui anche Carlo parla molto spesso. Quindi il libro cerca di fotografare questo racconto dominante dando alle persone uno strumento critico per porsi qualche dubbio quando tutti i giorni apriamo un giornale e vediamo che qualcosa di brutto è successo ed è per via di internet. Pensiamo alle molestie sessuali su internet. Proprio l'altro giorno è uscito un insolito editoriale di Aldo Cazzullo, L'amore al tempo della rete, che si scaglia contro queste piattaforme tipo Meeting, Tinder, ma in generale con tutte queste messaggerie che sono i luoghi dove soprattutto gli uomini fanno molestie, cioè esercitano molestie sessuali ai danni delle donne, prendendosela proprio con l'anonimato, che sarebbe un fattore abilitante, cioè il fatto che chiunque può nascondersi dietro la tastiera. Ecco, se guardiamo i dati dell'Istat, succedono delle cose terrificanti in una casa su due. In una casa su due una donna subisce una violenza fisica, psicologica oppure anche economica. E questo non ha niente a che fare chiaramente con internet e con i messaggeri. Anzi, i forum delle donne che raccontano le violenze che subiscono nelle case sono forum dove molte donne hanno il coraggio di raccontare quello che succede dietro le mura domestiche, proprio grazie all'anonimato permesso da internet. Quindi vedete come il discorso si rovescia completamente. Nessuno parla di internet come strumento che ha permesso a tante minoranze, per esempio le minoranze di altri, dei gender che prima non avevano cittadinanza, quasi non avevano parola nel dibattito pubblico. Ecco, all'ultimo festival delle corrispondenze sul lago Trasimeno c'è stato un bellissimo panel con parecchie associazioni LGBT che raccontavano come è stata internet a permettere un discorso alternativo che permettesse appunto di parlare di tante cose da tanti altri punti di vista. Eppure, secondo i media, quello che succede è che la violenza sulla donna funziona solo come fatto di cronaca autoassoltorio per il lettore, quindi tu non è che diventa oggetto di un articolo quando fa notizia e quando c'è un femminicidio. Lo scopo preciso anche di questa parola è escludere tutte le altre violenze, tutto quello che succede come fenomeno di massa, non come notizia di cronaca, e che internet comincia a rivelare. Quindi vedete, sono anche due opposizioni sociali. Visto che parliamo di donne, io credo che magari Lorenza è molto attenta a questo tipo di angolazione di un discorso, magari può col microfono funzionante. Buonasera a tutti e grazie dell'invitata, perché faccio immagine della vostra crew di live e sì, infatti un po' me l'hai servita, nel senso che i temi femminili sono quindi un po' simili, un po' tanti sono quel tempo. E tra l'altro ti cito anche perché a un certo punto tu parli di agenda 7, del fatto che studiamo l'agenda 7 uscita da altri e la andiamo poi a discutere all'interno dei social, c'è un passaggio per questo. E l'agenda 7 è questa roba appunto che dove secondo me il fenomeno del femminicidio a un certo punto è stato deciso che entrasse, cioè è stato proprio il femminicidio è sempre esistito, le violenze sulle donne, le molestie, quello che appunto stava dicendo, sono sempre esistite. Così è deciso che di femminicidio si doveva parlare, dove conosciamo movimenti, sappiamo appunto che viene dall'America Latina, da tutto il mondo e via dicendo. Però si è deciso che bisognava iniziare a parlare di questo fenomeno sui media e sui social. Per quanto riguarda la rappresentazione più generica, diciamo, della violenza sulle donne, non voglio arrivare su questo, però magari è uno spunto che mi dà. Io analizzo molto quello che è la narrazione di questo fenomeno, sia dal punto testuale che visuale, quindi a livello di immagine. E purtroppo in gergo si dice che la narrazione favorisca la rivittimizzazione della vittima, cioè si porta attraverso la narrazione di questo fenomeno a rendere nuovamente la vittima, a rendere la vittima per seconda volta una vittima, perché non si pone mai l'attenzione su quello che è la vera causa della violenza, ma più cari soggetti di causa la vittima. Il discorso che possiamo raccontarci un po' quello che dicevi te, no? Si dà la colpa al web di essere è la causa, il web è la causa del male, quando invece il web è uno strumento, e così più altro lo strumento che lo rivela, rivela la dimensione reale del fenomeno. Però strumento è una cosa, non dico sbagliata, ma troppo limitato. Il web è uno spazio, è un ambiente, e quando parliamo a un certo punto qua abbiamo messo web come spazio pubblico, da 20 quarto di secolo che ne stiamo parlando. Se iniziamo a concepire il web come diventa uno strumento che c'entra con lo spazio pubblico, io mi ricordo una litigata storica con Mimmo Cecchini, nome e cognome, uno dei miei migliori amici, uno dei maestri, potremmo dire, quello che diventato assessore all'urbanistica con Ruperti, inizia a ricomporre i pezzi di questa città devastata dal dopoguerra. Ma neanche Petroselli ce l'ha riuscito, quindi Moschettini viene un'umiliata. Io mi ricordo questa incazzata, proprio feroce, non animale, lui era più grande di me, lo riconosciò come un maestro, era uno dei leader di lotta continua, si rifiutava categoricamente di concepire il web come uno spazio pubblico, per cui la totale estraneità. Questo è uno dei problemi di fondo di cui andremo a trattare adesso, la questione sociale. È normale che una persona che è cresciuta con i libri, che è cresciuta con i film, no? Inizia a concepire che può essere spazio-tempo qualcosa che si definisce semplicemente con una stringa informatica. Ragazzi, so che è difficile, per molti è impossibile, ma io vi giuro che è così. Continuiamo, poi ne parliamo ancora, perché è così. Infatti quello che diceva lui, no? Sì, proprio capisco, non so qua, sono la parte degli quando definisci il web, internet, un luogo, uno spazio-tempo, no? Un'occasione di una piazza come l'hai definita, forse lo strumento possiamo definirlo come un linguaggio, ti chiedo, può essere un linguaggio, noi che ci puniamo un linguaggio? Siamo tutti che siamo abitati dal linguaggio, cioè non è che noi esercitiamo e basta, noi pensiamo attraverso il linguaggio, quindi altro che strumento, e non mi dire, è un bios, cioè, no? Cioè, quando dicevo il bios logos, questa è la cosa interessante. Noi lo stiamo uscendo, e ancora che siamo dentro, una fase in cui tutti i principi si sono ancorati al modello positivista. Adesso voglio fare la storia del pensiero dell'occidentale, sia chiaro. Però, e li siamo debitori, senza quella cosa lì, non avremmo forse avuto le centrali elettriche, non avremmo avuto le automobili, non avremmo avuto le case edilizie, tutta questa, ok? Però è evidente che quel modello lì non è sufficiente a contemplare la nostra evoluzione prossima futura, ma quando dico prossima futura è nell'arco della prossima generazione, perché abbiamo capito che siamo nell'arco del, mi passo la parola a voi, non dico il frullante, non sono un catastrofista, però ragazzi io ho curioso di dire, ma come facciamo a stare in piedi? Allora, cioè che lo spazio pubblico scusami Lorenza, magari ci ritorniamo. Lo spazio pubblico è concorrenziale per prima cosa, perché se noi cominciamo a interpretare, a usare internet come spazio pubblico, come diceva Carlo, finiamo, lo dico proprio nei termini più semplici, per spostare le palle dei nostri occhi in luoghi che non sono i luoghi desiderati da chi legittimamente vuole costruire un business. Quello che raccontavo qualche tempo fa per Brino, il principe Franoglio Ministeri, è che i modelli di business che abbiamo costruito adesso sulle grandi piattaforme, le grandi piattaforme che Stefano Simoncini proprio qua qualche tempo fa aveva definito delle enclosure di spazi pubblici, cioè hanno il preciso scopo di chiudere lo spazio pubblico, non accade più evidentemente come si faceva una volta, detenendo l'esclusiva della infrastruttura distributiva, quindi per esempio la TV con i suoi tradici, i giornali con le sue rotative, il suo canale distributivo nel tipo, non è, si fa più così, si fa in un altro modo, si fa chiudendo le persone all'interno delle reti dove ci sono tutti gli altri. Una persona perché oggi sta su Facebook, sta su Facebook che bene o male è sicuro di trovarci tutte le persone che già conosce. Ecco, all'interno di questi nuovi giardini murati, ma sono murati solo dal punto di vista relazionale, si crea poi un ulteriore enclosure nello spazio pubblico attraverso l'algoritmo. L'algoritmo che sostituisce il palinsesto della TV o il piano editoriale del giornale, nel senso che l'algoritmo ti porta sempre a discutere di quelle cose che fanno fare più engagement e quindi più business, liberando i vostri dati su piattaforme come Facebook. Anzi, direi quasi esclusivamente Facebook, il resto sono briciole. Ecco, in questo modo quello che accade è una santa ed eterna alleanza, per usare un po' il linguaggio della messa, tra i vecchi intermediatori, quindi i vecchi media, media distrib- e i nuovi, perché i vecchi media hanno tutto l'interesse che sui nuovi media si parli ancora tutti i giorni di quei 10 argomenti stabiliti bene o male nelle redazioni, e quindi un luogo dove potremmo parlare di diversità, di diversity, come diceva Lessing negli ultimi anni 90, è il luogo dove di nuovo torniamo a parlare di quelle cose da cui speravamo di poter fuggire, che sono il teatrino, per esempio, della politica, i fatti di cronaca, eccetera. Cioè, non si è creata minimamente in queste nuove piattaforme che drenano tutta l'attenzione, attenzione che l'ultima risorsa scarsa che è rimasta, non sono più i contenuti che determinano l'attenzione. In questi luoghi nuovi abbiamo di nuovo chiuso un giardino, che è il giardino dei temi. Di nuovo dobbiamo parlare di certe cose, dobbiamo dire la nostra su queste 10 cose, perché sennò siamo tenuti fuori dalla conversazione. E su questo si è riusciti a chiudere completamente di nuovo l'opportunità di uno spazio pubblico, che però ogni tanto si affaccia come minaccia per la grande industria. Per esempio, dov'è uno dei luoghi in cui questo è stato possibile? Una concorrenza dello spazio pubblico ai danni di questi nuovi giardini murati. Per esempio, i meme, come diciamo in italiano, i meme, come bisognerebbe dire nel mondo anglosassone, sono qualcosa con cui le persone non hanno fatto la rivoluzione digitale perché creano loro un contenuto concorrenziale. I contenuti generati dagli utenti non hanno mai rappresentato un pericolo per l'industria dei broadcast, delle major, non sono mai stati un problema. No, le persone hanno cominciato a dare significati diversi ai contenuti originali dei broadcast e delle major, facendo sfuggire completamente di nuovo il controllo. Perché, vedete, sui meme non c'è un modello di business. Se anche si fa un meme su Gene Wilder, no? Avete presente la classica foto di Gene Wilder, così, è sotto una frase, che tende tipicamente a prendere in giro qualcosa a qualcuno, oppure Chuck Norris. No, questi sono i tipici meme. Ma questi sono prodotti del mondo delle major cinematografiche. Ebbene, su queste immagini non c'è un business delle major, assolutamente. Che bello, sono riuscito a impedire l'incursione di Carlo. era per imbattere questo concetto, perché i meme non concetti. Ora gli ripasso, perché questa cosa dei meme, che è una parola non nuova, anche questa ben più di un quarto di secolo, almeno 30 anni, esistono da prima che arrivassero i social. Adesso la parola meme viene associato a tutti quei giochini un po' insidiosi che inducono e sollecitano l'immaginario, contagiandolo l'immaginario. È un principio del contagio, il linguaggio virus, è il concetto di Vida Barros. Forse qui è Richard Dawkins, che è un biologo incredibile, un biologo, però William Barros è qui le culture pop, la Big Generation. Di cosa stiamo parlando? C'è sicuramente dentro questa questione, e ora ripassa la parola ad Antonio, una cosa che riguarda l'antropologia, ok? Le trasformazioni antropologiche stanno cambiando gli uomini, che ovviamente cambiano anche le conseguenze. Qui torniamo al guaio, alla divaricazione, a questo dialogo, a questa schizofrenia in cui ci troviamo, per cui gente come noi, che ha fatto un po' da sentinella, si ritrova lì, perché dire, come nel giorno del Coca, non siamo un paese di pioniere, ma sicuro che negli anni 80 in questo paese dice anche Andrea Bordino, che sta lì tranquillo. È uno, come dire, ha conosciuto che era un arte, aveva appena scritto un libro di Radio Pirata, adesso lavora in Rai, si è messo a posto, però comunque siamo pieni di intelligenze straordinarie che hanno giocato avanti senza essere intercettati da nessuno. In altri paesi queste intelligenze sono entrate in qualche modo, non dico dentro il sistema, dentro del sistema. Però con Flavia ieri, Flavia, stavo evocando Flavia Marzano, chiamante la piccola, la stavo evocando, no, c'era un ragionamento che riguardava il sistema, no? Aspetta, non te lo dico, perché proprio ieri abbiamo fatto un incontro con Flavia Marzano dedicato a Paolo Zotti, che è stato una delle figure cardine dell'innovazione digitale in questo paese, scomparso 10 anni fa, e l'abbiamo ricordato, ed è messo a un certo punto di come in questo paese non si riesca a fare il sistema, c'è qualcosa di congenito. Dico questo perché ci aiuta anche a trovare una risposta magari collettiva, non collettiva, per frammenti, magari per flash, poi chi va. E Flavia, stavo venendo da te, Flavia. No, non è tuttologa, e non è la domanda, visto che lei è un bel lavoro coinvolgere adesso. Provo ieri. Non volevo finire la casa, ma la finisco tu. Come dire, non si interrompe, anzi, fatelo, io arrivo e interrompo. Tanto non è pubblico quello che volevo dire tu. Il pubblico non esiste, esistono gli spettatori. Allora, cosa voglio dire? Proprio ieri si diceva che in Italia non si riesce a fare sistema, siamo un paese di pionieri, di sperimentatori, è un paese che ha inventato la parola avanguardia e abbiamo vissuto l'esperienza dell'innovazione proprio con quelle caratteristiche là, e non si riesce a fare sistema. La domanda è perché tu, che da, non dico innovatrice, da una che lavora dentro i sistemi, perché lavora dentro la pubblica amministrazione adesso con un ruolo istituzionale di primo livello. Te la devo dire, visto che andiamo ad hashtag, te la dico ad hashtag, perché nel nostro paese siamo degli yes butter e non dei why not. Punto. Gli esseri, gli italiani dicono sì, ma non ti dicono mai perché no, proviamoci. Sì, ma yes butter, ai noi. E questo è non, da una parte. Dall'altra, se mi posso permettere, Lorenzo lo sarà d'accordo, perché ai noi. Il mondo è fatto di uomini e donne, il potere ce l'hanno gli uomini, queste storiche su cui combatteremo, ci dovremo vincere, ma poi ci amaremo. E dai tempi delle caverne, l'uomo per sopravvivere, cosa doveva fare? Aveva una meta, era uccidere la sua preda contro tutti gli altri, perché lui doveva portare a casa da mangiare, per portare avanti i propri geni. Ai noi è ancora così. E quindi l'uomo contro l'uomo, non come il fare squadra, il condividere, il stare sotto lo stesso ombrello, è una cosa che secondo me invece le donne che sono sopravvivute delle caverne, ma da un'altra parte, perché con 7-8 bambini intorno, il fuoco da tenere acceso, le fiere da tenere fuori, o condividevano qualcosa o se no erano guai. Ma finché al potere ci saranno almeno un 40% di donne, questa cosa non succederà. Allora, rilancio la domanda con pertinenza perché voglio rilanciare ad Antonio e a Lorenza adesso. Allora, le contraddizioni di genere ci sono tutte, quello che lei è chiarissimo. Rispetto al contesto italiano, ne abbiamo tutti più o meno presente altri paesi europei dove in qualche modo si è superato, non dico risolto il guaio, però c'è un riequilibrio quando parliamo di come l'innovazione sta non dico semplificando i servizi amministrativi, però dove si percepisce che il digitale è al centro dello sviluppo del paese, non solo industriale, quindi questo paese no. Proviamo a individuare due o tre tale e vediamo di capire se riusciamo a disinnescare qualcuna nei prossimi anni. Non so se bastano anni. E la cultura nel nostro paese è rigorosamente letteraria. Se io so tutto di filologia romana, sono una persona di cultura, so tutto di storia medievale, sono una persona di cultura, mando un razzo sulla luna, sono uno scienziatino, non una persona di cultura. All'elementare ci insegnano a leggere, scrivere e farti conto. Non conosco nessun adulto italiano che si vanti di non saper leggere, nessun adulto che si vanti di non saper scrivere, decine di persone che in matematica non capisco niente, non te ne vantate, perché da lì che passa, è questione di cultura, la cultura del dato non c'è. Vogliamo parlare nella pubblica amministrazione anche nelle scelte politiche? Come si fanno le scelte politiche? A naso, a pancia. E data driven decision, se vuoi scrivere un'altra hashtag per favore, prendi data driven decision. Io so che questa bottiglia è mezza piena, decido io se sopravvivo fino a stasera o no. Tu mi devi dire che ci sono 150 centilitri di liquido. Io devo sapere, ahimè, 150 centilitri non sono 150 litri. Se devo resistere fino a stasera non ci sono 900 gradi fuori, ce la faccio. Se devo attraversare il deserto non ce la farò. E questo impedisce avere i soldi, questo mi impedisce proprio di ragionare in termini un po' oggettivi, ma se non insegniamo ai nostri bambini sin da piccoli che la matematica è uno strumento per loro per sopravvivere prima e per prendere decisioni poi, anche contro la politica, perché il politico che ti dice che ti migliora la qualità della vita è bravo, il qualitometro non ce l'ho, il migliorometro neanche. Come ti controllo a fine mandato se hai migliorato la mia qualità della vita? Dimmi che sotto casa tua ci passano 40.000 macchine e ne passeranno solo 20.000 quando hai finito il mandato? Ne passano 21.000, tutto sommato sei stato bravino, ne passa 39.000, vai preso in giro. Antonio, no, ecco, ho capito perché c'è un mix giustamente che da quando la precedenza è una cosa, meno male. E infatti proprio con questo motivo Flavia, tu puoi anche fare uno strumento eccezionale come quello che hanno fatto i radicali con Open Police, dove tu puoi controllare tutto quello. Open Police non è di non era radicale. Hai ragione, no, non è radicale. Però c'era, ci sono, no, insomma dietro. Ma ci sono dei ragazzi abruzzesi, molto bravi. Il tema della rivendicazione identitaria è un ostacolo. Però conoscete Open Police? Come polis è interessante perché monitorizza l'andamento qui. Non solo, puoi anche controllare tutti gli atti di tutti gli eletti in tutte le pubbliche amministrazioni che aderiscono al progetto, che sono sempre di più, c'è cioè un sistema aperto. C'è un esempio, diciamo, di applicazione aperta, il problema è che le persone non lo usano, diciamo, gli elettori attivi non lo usano. Più o meno così come non usano Radio Radicale per verificare, per esempio, l'archivio di Radio Radicale per verificare la coerenza tra ciò che viene detto e ciò che poi viene fatto. E tu citavi prima l'anzianità in realtà di queste istanze di culture alternative, di spazi pubblici alternativi, di cui tu sei stato un diretto protagonista negli anni 70, eccetera, quindi gli anni tranquillari, tutto quello che hai combinato dopo. Ebbene, in realtà internet oggi sembra un po' lo spazio pubblico di internet è relegato ai margini, un po' come erano le radio libere negli anni 70 e come era anche l'ESA editoria, di cui si parla molto qui al macro, andatevi a vedere questi bellissimi convegni che fanno giù all'auditorio, in cui si parla delle stagioni di questi ciclostili, di questi riviste come il male, questo che è scritto anche tu come Frigidaire, cioè questi luoghi dove addirittura, ecco, c'è un'espressione che mi sono segnato nella mia totale ignoranza perché mi ha colpito, cioè quello che succedeva in questi luoghi dove per strani ragioni si posavano la prima volta agli occhi delle persone, e non era la stampa ufficiale, non era la TV ufficiale, eccetera. Succedeva, scusate, non lo voglio ritrovare, che praticamente erano media non filtrati, che avevano il potere di forzare le tassonomie politiche, le tassonomie etiche addirittura, e anche le tassonomie morali, e quindi metteva in discussione davvero quei collanti, quelle certezze che poi facevano dei media ufficiali il loro strumento indiscutibile. Per questo io parlavo di fake news negli anni 60, perché la strage di Piazza Fontana doveva essere, secondo tutta la stampa ufficiale, opera di un ballerino anarchico, non certo perché interessasse a nessuno sapere che erano stati gli esecutori materiali, va bene, che neanche li sappiamo ancora con certezza, ma più che altro per fare un passo successivo, cioè capire tutte le convenienze di potere e tutto il ruolo che nel frattempo i media avevano assunto a supporto di quelle convenienze di potere. E qui veramente basta leggersi Chomsky, non c'è bisogno di arrivare al 2019, non c'è niente di nuovo, non c'è assolutamente nulla di nuovo, ma è appena città del mare, chi si ricorda di voi? Ovviamente i più grandi, le prime pagine false. Allora, il concetto dei fake a partire da Orson Welles, no? A partire da Orson Welles e la sua diretta radiofonica e dello sbarco degli alieni a New York, eccetera, facevano parte anche di una cultura, parte la disinformazione di Stato, no? I servizi segreti, quello che è accaduto in questo paese e forse secondo solo agli Stati Uniti in termini di complessità politica, di ambiguità politica, di gravità politica. Ci sono delle strade, quella di Brescia che ricorsa proprio ieri o l'altro ieri, no? Con la gravità in aumento 102 persone, no? Allora, chiusa la parentesi e ritorniamo al segno. Il riferimento che faceva adesso Antonio su questo convegno, credo che si svolgerà, è una cosa che a un certo punto ha preso forma, si è imperata, con una parola più forte, si è imperata con il web 2.0. La parola che sarà poi oggi molto criticata, ma allora fu illuminata per uno come me che a quei tempi faceva i volentini Tarzanbao, e il nostro obiettivo era produrre informazioni indipendenti, autonome, no? Il concetto di disintermediazione. Potremmo dire, e quindi ti ripasso poi anche te Lorenzo quando poi entra dentro, che il sistema istituzionale, non solo istituzionale ma di mercato, dei media, non poteva tollerare questo tipo di impatto. Ha cercato poi di contestualizzarlo, no? E i blog che nascevano di trovare testate giornalistiche e tutto il resto. La disintermediazione ha aperto un fronte di libertà, con dentro delle contraddizioni però quasi. Naturalmente, diciamo, le informazioni indipendenti, tu parlavi tu negli anni 70, la controinformazione che ci stiamo portando ancora adesso come concetto, tant'è che nei primi anni di Internet, negli anni 90, iniziarono dei siti che però erano delle centrali di nuovo di controinformazione che si chiamavano Indymedia, che è senza filtri, però anche lì c'era un equivoco, anche quella era una centrale. Internet come spazio pubblico non è una moltiplicazione di centrali. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni è che Internet permette a ciascuno di noi non di fare concorrenza all'informazione ufficiale creando altra informazione, ma dando nuovi significati ai contenuti. C'è un fenomeno che viene anche chiamato transmedia storytelling, che riguarda anche il mondo dell'intrattenimento, non solo il mondo dell'informazione. Cioè, parliamo di Lost, per esempio, che hai studiato anche le serie TV, ma quando non è tuo quello, vabbè, allora perdonami, però ci sono dei luoghi dove Lost, anche se è andato avanti per conto suo, come Lostopedia, progetti internazionali che hanno coinvolto appassionati di centinaia di paesi, che hanno scritto storie dentro le storie. Sempre a parola di studio a Trieste, io parlerò di retro gaming. I vecchi videogiochi degli anni '80 hanno influenzato incredibilmente l'arte, la cultura digitale. Cioè, noi oggi, se vediamo Pac-Man pixelato, tutto squadrettato, non lo buttiamo nel cestino della spazzatura come faremo con una tecnologia superata, perché ormai gli abbiamo attribuito dei significati noi, su cui né la Namco, né la Taito, né la Atari, nessuna delle grandi case di software che fecero soldi negli anni 80 oggi fanno più soldi. C'è tutto un mondo di emulatori che ha ricostruito esperienze partendo da questo. Allora, siamo sempre nel discorso dei meme. Tutte queste cose spostano i vostri occhi in luoghi dove non si fa il vecchio business. E allora, come reagisce l'industria? Come mai uno dei chiodi fissi dell'ultima direttiva del copyright passata a Bruxelles è stata la guerra proprio ai meme? Perché non è una guerra sul copyright, il problema sono la libertà di attribuire significati diversi a contenuti che fanno comunque soldi altrove in un altro modo, che soldi che non sono minimamente minacciati. E vedete come abbiamo superato completamente l'epoca in cui, vabbè, tutto sommato, se si parla del mio film, sono contento perché fa pubblicità al mio film. Su internet, superata una certa soglia, continuare a parlare di Game of Thrones non è esaltare all'infinito il mito e quindi il business di Game of Thrones, e comincia a essere luoghi dove si posano le palle degli occhi delle persone, sottraendo l'unica risorsa scarsa, che è l'attenzione al contenuto originale. Ed è per questo che la campagna del copyright del 2018-2019 delle major è moderna, molto moderna rispetto alla vecchia campagna, diciamo, di protezione di accesso al contenuto. Non è l'accesso al contenuto, quello che spaventa la possibilità di attribuire significati nuovi, dove tra l'altro, attenzione, in questo nuovo mondo di significati attribuiti dalle persone si può costruire un business che però costringerebbe di cambiare lavoro o il modo di lavorare più o meno al 95% dei professionisti dell'industria, che vedono invece apportata magari la pensione senza dover cambiare lavoro, si fanno un rapido calcolo e dicono no, tutto sommato va bene così. Lorenza. Ok, allora, mi volevo agganciare a questa riflessione sui nuovi sensi, i nuovi significati, e a portare sul tavolo un altro argomento, quello dell'uso del web da parte del mondo della cultura e dell'arte, nel quale lavoro ultimamente, perché magari posso dire qualcosa che mi viene più motivata. E a un certo punto nel tuo libro tu parli appunto di queste casseforti di senso che si trovano all'interno del web contro le cassaforti di significato universale che invece davano i media mainstream, no? Ma da qua il discorso in parallelo quanto prima con la Agenda 7 di Lisbona. Allora, da quello che posso appunto raccontare, da quello che magari ci avete anche confrontato con voi, il mondo dell'arte che non è ben rappresentato, ben rappresentato nei media mainstream, perché è una parte della comunicazione, facciamo il servizio sull'arte, sulla cultura, c'è il canale tematico, oppure nel quotidiano lo trovi in fondo, quindi è una parte della comunicazione mainstream, per cui non può comunicare tutta quella che è la realtà, no? In realtà parliamo in particolare dell'Italia, che è ricchissima, anche tu poi fai questa considerazione proprio sul patrimonio, no? Che abbiamo culturale del sistema italiano. Allora, cosa sta succedendo? Che le istituzioni hanno capito che possono cavalcare l'onda di web e utilizzarla per comunicarsi in maniera innovativa, e ci stanno provando, e quindi stanno creando i siti, stanno aprendo le pagine Facebook, insomma, tutta quella che è la comunicazione ormai standardizzata, che dai media tradizionali stanno anche sui media digitali. E questa, diciamo, un po' e quindi, diciamo, si stanno autonarrando, no? Le istituzioni. Parliamo di un museo qualsiasi, anche qui è successa più o meno la stessa cosa, quando è stato tutto riorganizzato, il sito, la comunicazione, i social, eccetera. Ormai questo fa parte dello standard. Ma la cosa invece secondo me molto più interessante è la narrazione che fanno delle mostre, dei quadri, dei luoghi di cultura il pubblico o gli spettatori. Non mi puoi spiegare la differenza? Poi non posso. Vabbè, comunque gli utenti. Gli spettatori è una moltitudine. Ok, i fruitori, diciamo, per esempio, di una semplifico, va bene? I fruitori di una mostra. E siamo tutti lì, ci metto, al di là del fatto che siano tra i lavori, però sono anche, posso mettermi nel pubblico? Non devi spettatori, non ci sono stati. Sono una cittadina che va anche a vedere le mostre. Vado lì con il mio Instagram, fotografo, pubblico, e mi piace, mi chiedo pure perché faccio questa cosa, tra l'altro, cioè mi pongo anche delle domande. Però mi piace, mi dà gusto. E la risposta in realtà poi è del tuo libro, quindi cioè, l'ho anche riletto per questa occasione, quindi ho rimesso anche un po' di puntini su delle lì, no? Sai, poi sei da teorizzare quello che fai nella vita, a volte non capisci. E allora non solo io mi posto la foto di Tommaso Pinga, che mi piace il lavoro di Tommaso Pinga, tutte le volte lo fotografo lo posto su Instagram, detto vabbè, così. Dopodiché, se lo pubblica la mia amica, cioè la mia collega, e lo pubblica, io, malgrado io sappia chi è l'artista, conosca l'opera, so esattamente dov'è, da quando c'è, io me lo vado a rivedere, ok? E io e lei, insomma, abbiamo fatto una narrazione nuova di senso. Aspetta, poi finisco così, no, non lo finisco, no. E io e lei siamo andati a fare una narrazione nuova di senso di questa opera, adesso per portare un esempio pratico, che è isolata dalla narrazione mainstream e dalla narrazione istituzionale, che sia web, dei media tradizionali, del museo, della cultura, della mostra dell'arte. Ma allora, perché io mi vado a pubblicare la foto e una mia collega, o lui, un altro, che non conosco, me la ripubblica e io me la rimango a riguardare? È l'emozione. Sì, allora, questa è la risposta del libro. Il prodotto diventa la più la capacità di entrare nell'emozione determinata dal contenuto che nella condivisione del contenuto. Cioè cominciamo a condividere emozioni grezze. Tu conosci il vissuto di Sabrina, il suo rapporto con l'arte, e conosci anche la sua storia come persona. Quell'opera è attraversata come se fosse immersa in un secchio che è la vita di Sabrina. Però è la stessa immagine, cioè alla fine la riflessione era su questo, no? Fatta, scusa che ho interrotto, però è poi la riflessione tra il contenuto e il senso, no? Perché alla fine, vabbè, magari qualche fondo viene meglio, con un altro telefono viene male, la prendo da sotto, me la prendo da sotto, ma quella è, ok? Così come quando sapevo i concerti, diciamo, delle esperienze, degli eventi di massa, poi sostanzialmente si va a vedere, certo, si vede la mano del fotografo professionista, ma tutti gli altri, almeno quello è. A rivederci la cosa, quindi penso che l'elemento emotivo sia fondamentale, e questo è proprio il mio altra cosa. E però mi piaceva appunto questa narrazione che dà un senso, tanto vabbè, è una sull'emozione, penso che il web sia pensiero in questo, per sempre da studenti, non so, io è un media credo, dato, dove lo conosciamo? Voi che siete. Ma su quale? Non c'era. No, non lo sa. Allora, anche perché la sua divisione è tanta, anche perché Cardi secondo me era sbagliato, e ti volevo bene. No, la cosa è che poi ci facciamo fregare dalle dischere, una cosa poi ce la fai a dire, uno vuole dire qualcosa, lasci un cenno e lo intercettiamo. Allora, questo passaggio è importante. No, è importante perché abbiamo una cosa, la merce, siamo noi, altro che i nostri contenuti, perché non è solo quello che scrivi, e a chi lo scrivi è come si fa a carambolare all'interno di cerchi che tu costruisci come una formichina senza testosterone, ovvero senza rilasciare scia chimica. Noi creiamo delle scie, dei pacchetti, ci inventiamo da soli, ci incontroniamo dentro il grande spazio-tempo del web e non ne caniamo tutto. Sappiamo che il gratis produce un costo, quindi noi paghiamo quel gratis rilasciando tutto questo ben di Dio. Tenete conto che io qui a un certo punto mi sto appuntando delle cose, mi dico anche voi a farlo, a un certo punto spiego, rileve il valore. Una volta c'era una fiera, cioè il valore viaggiava su un modello lineare inesorabile, la produzione delle merci, la loro, cioè, le materie prime che poi diventano merci, la loro distribuzione, la loro promozione, ok? Tutto un sistema predefinito, molto chiaro, inossidabile come l'acciaio, era chiarissimo, sistemi interi, milioni, decine di milioni, miliardi di persone hanno vissuto, miliardi, sì, un miliardino, una, due, là, hanno vissuto su questo modello che ora sta andando in crescita. Anche nei paesi di sviluppo, quindi che chiamavamo così fino a qualche decennio fa, non funziona più. Sta, e qui arriviamo al nodo dei nodi, ragazzi. Ma vi rendete conto, sapete cosa stanno facendo i cinesi con questa cavolo di parola qua? Social credit? Le avete condizioni oppure no? Altro che tagga sulla testa, tracciatura più o meno consapevole dei cittadini, parliamo di centinaia di milioni di cittadini che si tracciano da soli, perché se non ti tracci non trovi soluzioni, non trovi posto all'ospedale, ok? Il futuro è dentro questa cosa qua, e non parliamo, c'è chi pensa che i cinesi non sono affatto così cattivi, questi sono confuciani, hanno un modo di pensare che noi non concepiamo, se lo possono permettere che li staccia miseriaci, quindi io li porto anche rispetto, non sono dei gran figli di puttana, poi non dico cosa voglio dire, che noi a forza di cosa faremo mostro, stiamo costruendo tutto un mondo, stiamo usando gli Instagram, io non amo per niente, perché è la più opaca di tutti, almeno su Facebook, però poi lasciamo perdere poi altri discorsi, no, su Instagram, poi regaliamo con tutto, sappiamo che non è mai un regalo se è grande, sposta, e noi accettiamo tutta questa cosa. Rispetto alla disintermediazione, che è stato un bel, non dico solo, una bella chance, che si è esaurita, era destinata ad esaurirsi, tu, allora, Antonio, ancora di scritto il personaggio, è uno che questa roba qui l'ho scritto qualche giorno fa, non è che cavalca l'onda, non dico che è l'onda, non è l'onda, ma ci sta dentro l'onda, anch'io per alcuni aspetti, però quindi di cosa è fatta l'onda, però allora dimmi, allora hanno avvicinato il corpo, sì, ok, più benissimo. Questa cosa è importante perché non tutti, cioè molti di noi tra i più presenti a colpo d'occhio abbiamo un buon grado di consapevolezza, no? Tutti un po' per sé, secondo quello che cerca, quello che fa. Antonio, non dico di più, ma è dentro una Telecom, potremmo dire la Telecom, se non se lo meritasse, mi spiace della tua azienda, questo articolo, perché più determinata di così non potrebbe essere, questa Telecom nazionale, che purtroppo è vista la colpa di D'Alema, che tutti i personaggi di quel governo lì che hanno smontato quel sistema, tornando ai sistemi Italia, perché in un'azienda di telecomunicazioni come quella che governava la STEP, parliamo di 20 anni fa, 18 anni fa, eccetera, poteva garantire non solo delle infrastrutture, ma dei servizi al cittadino, poteva garantire una non opacità, non mi piace poterlo pensare, qua siamo un paese che ha fatto fuori un livello, che era una delle chance vere per questo paese col modello industriale. Tornando al punto, qui ci stiamo rendendo conto che quando parliamo di guerra ci piace pensarlo come spazio pubblico, e sarà, e lo è, che straccia non si piace se non lo è, altro che difendere casa per casa, la lotta di vista. Qui il problema è solo su guerra, che dobbiamo difendere i nostri margini di abilità, di agilità, scusate. È veramente fondamentale, quando dico sì, usiamo Facebook, ma non mettete tutto su Facebook, fate un bloghetto, prendi uno spazio server da qualche parte, governa la tua identità, il tuo patrimonio, anche perché, e qui ripasso la parola subito ad Antonio, poi se qualcuno fra vuole dire una cosa, sì, perché la continuo bene. Il patrimonio, il patrimonio culturale, ma di che cosa è fatto? Un insieme di statue, di chiese, di quadri, c'è un concetto che è emerso che riguarda proprio le tecnologie, singolarità tecnologica. Questo concetto è interessante perché è un concetto di maipugnanza, quello di singolarità. Mi conosce, mi sa anche bene che passi attraverso un mondo delle tecnologie, ma il concetto di singolarità europeo o singolarità italiana è un concetto che dovrebbe aiutarci a ragionare di più su questa questione di cui stiamo trattando. Io ho definito oggi il grande guaio. Questo stiamo vivendo un grande guaio, divisi tra l'inadeguatezza e l'ipocrisia di fondo di editori e decisori e il rischio deriva tecnocratica per un futuro eterodiretto. Siamo proprio in mezzo a questa cosa qua, di decisori, editori, imprenditori che hanno fatto di tutto per non affrontare la questione e altri che la questione la sanno tutta fino in fondo e anche un po' di più, che sono pronti a incorporarci tutti dentro un sistema eterodiretto, fino ad arrivare a questi modelli qua, socialmente, che non è la paranoia assoluta, uno può dire, oh, me ne frega, io voglio vivere così, traccio, mi dai servizi, pago un po' di meno. Basta saperlo però. No, basta saperlo. Sceglierlo, ecco, il concetto di scegliere, forse io vorrei introdurre, legato a quello di consapevolezza. La parola di scelta, la parola scelta è importante. Sappiate che la parola eresia significa saper scegliere. Me l'ha insegnato Don Ciò in prete, mi ha insegnato cosa significa eresia. Guarda, io chiedo a Lorenza, che ha una voce bellissima, di leggere le ultime tre righe del libro che parlano un po' di questo. Cioè, noi la rete, la rete l'abbiamo avuta. Pronto, sì, la rete l'abbiamo avuta, ma non abbiamo saputo cosa farne per cambiare le cose. Carlo dice sempre una frase bellissima, è che i media sono agiti per non subirli, devono essere agiti. Ancora più importante, quello a proposito dei luoghi del patrimonio culturale, un esempio di la parola governo, cioè se non vuoi subire il codice dell'algoritmo, del grande gioco eterodiretto, l'unico modo è sul territorio compie un'azione sociale anche abilitata dalla tecnologia, per esempio le mappe che ce lo permettono, no? In quel modo tu, come dice sempre Stefano Simoncini, che abbiamo incontrato qua, tu che cosa fai? Stai creando una propaggine digitale di tua iniziativa su un bene che non era tracciato, no? Che non aveva ancora quell'attribuzione di senso individuale. Attenzione, non è detto che dovrà essere un'opera, può essere anche un McDonald's in periferia, che però per te è uno scrigno di senso, perché magari era il posto dove ti vedevi con l'amante tutte le settimane, e quella è una storia. Quindi non è detto che sia un'opera d'arte, ok? Però se ci sono tre persone che sanno questa storia, ecco che abbiamo creato qualcosa dove i nostri occhi si posano e non si posano su General Hospital, okay? per citare la più vecchia retriva e long standing delle serie TV degli anni 70-80, dove gli attori invecchiavano insieme ai personaggi che interpretavano, intanto qualcuno moriva e veniva poi sostituito. Ecco, questo per dire il mondo dei significati universali da un lato e il mondo del senso individuale riaggregato da noi, dalle nostre preferenze, dalle nostre scelte dall'altro. Lorenzo, your turn. Soprattutto in un luogo, la rete, che nasce per essere popolato ed esplorato dalle nostre scelte, e penso che sarebbe un bene se rimanesse tale. Ecco, è bellissimo che abbiamo fatto lo spoiler del libro, però invece che il colpevole che c'è la sinergia, qui c'è un'azione individuale che ciascuno di noi può compiere per piano piano dire: questa rivoluzione non l'ho completamente sprecata, perché è chiaro che in questo momento ciò che fa sì che i media tradizionali si comportino nel modo che sappiamo è semplicemente un riflesso di sopravvivenza. Non c'è un problema di padrone in redazione come negli anni 90, Montanelli che lascia il Corriere e fonda la Voce perché c'ha l'industrialone e non c'è l'editore puro. Qui ci sono problemi di quando la catena distributiva era una. Ora che le catene distributive sono una commodity, sono fungibili, sono a disposizione di tutti, il problema è un altro, è prendere in mano le nostre scelte e fare di internet qualcosa di diverso di quello che i nuovi intermediatori come Facebook, il più famoso, non è solo, vorrebbero fare. Scusate, prima mi avete interrotto perché cercavo di spiegare come qualcuno sta cercando di fare un business in modo completamente diverso con i nuovi significati. Chi ci è riuscito? Musical.ly, che adesso si chiama TikTok, è un social network, guarda caso, usato da persone massimo 18 anni. Perché? Perché noi siamo persi per una piattaforma come Musical.ly, che crea business su dei remix continui di canzoni, ok? Di canzoni adolescenziali, dove ciascuno rimonta il proprio video e lo ricondivide come gesto sociale, attribuendo un nuovo senso del tutto indipendente. Perché chiaramente, quando parliamo del web cattivo che ci rende più violenti, rissosi, eccetera, parliamo del web dei trentenni, dei quarantenni, di chi ha vissuto 30 anni di televisione commerciale con tutti i significati universali legati alla TV commerciale, l'arroganza, il sessismo, la violenza, la presunzione. Gli adolescenti, di cui ci preoccupiamo per il fatto che internet potrebbe corromperli e renderli peggiori di come eravamo noi alla loro età, gli adolescenti fanno di internet un uso che rende visibile l'uso che facciamo. E allora, per noi dico questo perché guardo questa platea e vedo tutte persone di una certa fascia d'età, che cosa possiamo fare? Almeno non lasciare persa individualmente questa opportunità che abbiamo di farne luogo di scelte individuali per poter dire di non aver vissuto semplicemente una versione un po' più sofisticata della televisione, perché lì siamo. Flavia? Adesso vi faccio domande. Sono informatica in me. Poi mi spiego anche quello. Quanti abitanti ci sono su questa terra? Quasi 7. 6.5 abbondante. Allora vi do una bella notizia, così vi fate subito male rispetto a quest'ultima frase che mi è piaciuta tanto del libro, ma che mi ha fatto pensare che tutti i giorni che ci sono sulla faccia della terra, tutti i giorni ci sono 21 miliardi di cyber attacks. Significa che ognuno di noi sulla faccia della terra potenzialmente ne ha 3 al giorno. Non è una scelta. Voglio dire, nessuno di noi può più che tanto. Vai. Queste non sono scelte di uomini, sono scelte di bot. Ok? Sono scelte automatiche. Non è che ogni giorno ci sono degli uomini che decidono individualmente 21 miliardi di cibernetici. Non nascono da soli, li fanno le mani. C'è un governo di questa scelta, però non possiamo mettere sullo stesso piano le scelte individuali. Le scelte individuali che poi vengono moltiplicate, perché il paragone reggerebbe con la scelta di Berlusconi, che a un certo punto decide di prendere mano tutta la TV commerciale stracciando il costo degli spot, visto che lui aveva una botola da cui uscivano i soldi, quindi era facile stracciare Berlusconi e Mondadori e quindi comprarsi anche Italia 1 e comprarsi anche Rete 4, e così si è tutti i giorni ha compiuto da quel giorno in poi 21 miliardi circa di cyber attacchi alla nostra psicologia, producendo il disastro che vediamo oggi. No, era soltanto per dire che a noi il controllo possiamo, ma solo fino a un certo punto. Sono ovviamente d'accordo con te, non sarei quello che ho fatto negli ultimi 40 anni, ahimè, compreso dire ai ragazzi quello che in parte accennavo prima Lorenza, quando sono all'università e dico cos'è internet. È una piazza mondiale eterna. E l'eternità ai noi è quella per cui io gli dico non pubblicate mai su Facebook quello che non vorrete che tra 5, 10, 20 anni qualcuno vedesse, perché poi tenete in testa. Ma questo è difficilissimo da far capire ai giovani, no? Io la cosa su cui soffro di più in assoluto, perché mi rispondono tanto la mia mamma non è su Facebook e non c'è lei, c'è la sua amica, caspita. E quindi prima o poi qualcuno che glielo dice te lo trovi. E io quando ti devo assumere, la cosa che faccio è guardare la tua storia. Ed è faticosissimo. Però è social credit. Assolutamente sì. Riusciamo a fare assolutamente sì. Se uno ha un tanto pieno di donne sedute. Poi, tornando su Empolisi, all'openness che anche tu nel tuo libro scrivi e che Carlo ama tanto, personalmente con Empolisi abbiamo fatto quei bilanci, per cui se guardate sul sito di Roma trovate i bilanci degli ultimi 10 anni. Per cui potete confrontare su quel capitolo di spesa con delle infografiche cosa ha speso l'altro e cosa non speso con gli altri, e anche queste sono opportunità di, perché sono strumenti anche di disintermediazione, perché i bilanci online sono obbligatori, ma se non ci metto un'infografica a capire il bilancio di un ente pubblico ci vuole uno a 600 pagine non indicizzate. Esattamente, la mia agenda è online, open agenda, a proposito, per cui a parte ora che sono qui a nome personale, sono venuta con il ruolo che ho, quindi non è in agenda, ma quando faccio cose per Roma Capitale lo trovate in agenda. La disintermediazione è sicuramente un grandissimo vantaggio. Se voi prima volevate scrivere a Trump, non sapevate come arrivarci, adesso lo taggate su Twitter. Punto. Non sarà lui, sarà il suo staff, ma riuscite ad arrivarci. Pensate come poter arrivare al Presidente della Repubblica, quanto può essere difficile per un cittadino qualunque, non lo è più. Grazie a Dio siamo in disintermediazione. Dall'altra, per quanto mi riguarda, ahimè, per la mia storia, perché sono informatica, sono sui social da quando sono nati, mi ritrovo a essere il front office di tutta Roma Capitale sui social network. Quando qualcuno trova una buca mi tagga su Facebook, su LinkedIn, su YouTube, ovunque mi capiti, su Messenger, su WhatsApp, su Telegram, su tutti i media possibili e immaginabili. E se c'è la busca e si ferma e taggano la Marzano, e pazienza. Io poi rispondo, perché credo che sia anche giusta la disintermediazione, magari in oltre ai miei colleghi, però questo secondo me è un grandissimo vantaggio che ci ha dato, è un'opportunità da cittadini. Poi lei dice le istituzioni, no, che vanno sul web, e da mo, e salvo che poi sarebbe bene che oltre ad andare sul web rispondessero anche al cittadino che li fa, perché sennò non serve a niente. Però c'è anche l'altro aspetto. I primi sei mesi che ho fatto sto lavoro li ho passati soffrendo, prendendo un sacco di schiaffi, ma proprio schiaffi brutali, aggressivi, violenti, perché poi a proposito di parole ostili vi potrei raccontare una lunga storia, ma rispondendo a tutti adesso questi signori che adesso mi segnalano cose, gentilmente me li segnalano in privato, prima mi sbattevano in prima fase. Una cosa che volevo sottolineare sul concetto di disintermediazione, no, ma anche così perché il microfono è il podcast? Sì, aspetta, ok, il podcast perché sta registrando. Ok, c'è una parola che è stata perduta e si riferisce moltissimo al concetto di tassonomia di cui hai sentito parlare prima, ed è importante anche perché è foriera di contraddizione. La parola, il concetto, l'approccio è folksonomy, la tassonomia popolare. La gente usa tutti questi per curarsi, ma compresi gli antivaccinisti, compresi tutti i rumori di cui stiamo trattando. Nonostante tutto quanto questo, nonostante tutto questo rumore, questa criticità, a parte il fatto che viene usato come arma impropria dai media tradizionali per fare casini, è comunque un'opportunità straordinaria la disintermediazione. Questo è l'elemento che bisogna sempre affrontare con una buona lucidità, anche se, e lo riconosco pienamente, è critica, è problematica, è pericolosa nel momento in cui vengono a passare dei concetti, delle opinioni, delle tassonomie popolari, delle folksonomy, su quale si può creare molta ambiguità. Però questo è, secondo me, torniamo al punto dei punti, per capire come ci giochiamo questa partita sul crinale che ho chiamato guai. Noi stiamo, da una parte, ci ritroviamo con un mondo che non è che non vuole cambiare, non è in grado di interpretare, ma per inadeguatezza, va sicuro. Io mi trovo costantemente a gente che non sa cosa è un drive, che cos'è il cloud, ed è un problema vero. Spesso questi sono o decisori, o sono insegnanti, eccetera, eccetera. Questo è un problema enorme, però è fisiologico, non prendermi altro. Ma questo paese è comunque incagliato. Dall'altra parte ci sono i sistemi, o banchi, i social credit, sarebbe interessante parlarne un po' di più, perché io stesso non so bene come stia operando la Cina, io non so se quel sistema l'ha già lanciato tutto o lo sta ancora sperimentando. Tu su questo, Antonio, sai dirmi qualcosa? Ci potrebbe, caro Lafrediani, per questo. Mi ha fatto venire in mente una cosa, Flavia, quando hai detto gli attacchi che subisci tutte le volte che si tacca, che subisci, ecco, questo è importante, perché mi ha fatto venire in mente proprio il fatto che viviamo in un'eterna presente, cioè tu hai subito questi attacchi e quindi hai subito gli effetti della disintermediazione, dopo un'opera di tra trasfigurazione di Flavio Marzano ad opera dei media tradizionali. Tu, appena preso quell'incarico e nei mesi successivi, eri la Roma, diciamo così, nelle mani delle persone, diciamo, che avrebbero sconvolto tutto, fondamentalmente, detta in modo più gentile, ma non detta in un modo molto, molto più aggressivo. Non è successo nulla di diverso quando la ragazza che è scappata al crollo dell'hotel Frigopiano commise l'imprudenza, dopo essere finita con la sua bellissima storia di sopravvissuta salvata dai vigili e pompieri sul giornale, il giorno dopo ha ringraziato i pompieri per essere stata salvata, ma non aveva capito che in quel momento aveva creato un palcoscenico di odio, perché in quel momento lei era una celebrità, era la celebrità del giorno, era stata, ok, a quel punto si è scatenato un diluvio di odio nei suoi confronti in proporzioni gigantesche. Perché? Perché i media tradizionali ci tengono un eterno presente, le piattaforme digitali nuove vivono di quello stesso eterno presente di cui hanno bisogno i media per giustificare la loro vita. Ed ecco, le due cose si incrociano. Se posso, su Parole Oscure, perché tu hai solo accennato cos'è, ma è un bellissimo manifesto di 10 punti, dove, se vedete, c'è un apostrofo tra O e Stil, perché parole o Stil. L'obiettivo è, in questi 10 punti di questo manifesto, dire come si può evitare di... Il nono punto, il termine esatto come è descritto non me lo ricordo, ma il contenuto è quello che mi piace di più in assoluto, se lo trovi leggilo. Perché di fatto dice, e io lo faccio mio da 3 anni a sta parte, non accetto parole ostili neppure se le usi per difendermi, perché così tu devi difendermi se vuoi, ma sui contenuti non hai bisogno di ferire, di offendere, di attaccare. È cosa di oggi, se mi permettete ve la leggo perché è spaventosa. La sindaca Raggi, supponiamo che sia anche il peggiore dei sindaci al mondo, non è questo che sto discutendo, ha avuto un attacco tale per cui ha dovuto raddoppiare la propria scorta e mettere la propria macchina blindata. Scrivo che questo è una cosa spaventosa per un paese civile, sui social, e una persona scrive: una buona occasione per la Raggi di lasciare l'incarico di sindaca per quel nulla, punto maiuscolo, che ha fatto per Roma. Non vale la pena correre rischi inutili. Aspettiamo le sue dimissioni. Ciao, ciao. No words. Come si fa? Ripeto, anche pensando che lei è il peggiore sindaco di tutto l'universo negli ultimi 3.000 anni, è inaccettabile fare un discorso simile su una persona che rischia la propria vita e di suo marito e suo figlio. L'ho trovato spaventoso. Usciamone di lì da sta cosa, se siamo capaci. Ok, Giuseppe, un microfono. Ciao Antonio, volevo porti questa domanda perché è una cosa che mi viene spesso: la presunta gratuità di internet. Quando non paghi, il prodotto sei tu. La domanda è: ma non è sempre stato così? E adesso, aspetta, adesso che cosa è cambiato? Qual è la ulteriore pericolosità? Quando mi sedevo davanti al televisore gratis, pagando il canone che io non ho mai pagato, perché a Napoli il canone come in Italia non lo paga nessuno, come il vecchio giradischi della Reader's Digest, ricordate? Ecco, dico, ma adesso qual è il pericolo? Il fatto che io sia tracciato? Il fatto che vendano i miei dati? Ma è un pericolo? Poi, allora, è incredibile perché quando hai detto questa cosa, ma non è sempre stato così, io sono stato a Berlino 4 giorni fa e davanti avevo anche persone della Nielsen che hanno inventato un oggetto che si chiama l'altimeter negli anni 60, poi l'hanno perfezionato ed era un oggetto che veniva messo nelle case di 10.000 famiglie proprio per avere a campione la rilevazione dell'audience. Quando cambiavi canale il telecomando automaticamente mandava un impulso, diceva: non sta guardando più NBC, sta guardando ABC, ok? La domanda che ho posto provocatoria lì al front over è stata: ma siamo sicuri che se Nielsen avesse avuto la tecnologia di oggi si sarebbe posto dei suoi straordinari problemi etici su cosa fare con i nostri dati e come farci delle campagne targetizzate, eccetera? Ma figurati, dice Claudio, con un vago accento settentrionale. Che ne sa. Che ne sa. E allora, quindi, il problema di oggi c'è, però il prodotto 6.2 era vero anche prima, semplicemente con una tecnologia infinitamente più bassa. In Giappone, davanti ai negozi, c'erano le persone pagate per contare tutte le persone che passavano davanti al negozio. Era la tecnologia dei tempi. Allora, noi dobbiamo renderci adeguati alla evoluzione tecnologica, e anche io non sono di quelli che dicono che internet non vada normata, che tutti i big data non vadano normati, però il problema è che oggi l'impulso che spinge un politico a dire normiamo internet è andare dietro al racconto che fanno i giornali di internet, che è quello che abbiamo visto prima. Quindi, per esempio, non scherzo, sono due grossi intellettuali che hanno scritto rispettivamente un bel articolo e un bellissimo libro intitolato Chiudete internet, nel 2019. Questa è la narrazione dominante, non si prova minimamente a scalfire il tema del rendiamoci adeguati, perché sono problemi pubblici, non sono problemi privati, sono problemi politici questi. Quindi non si risolvono dicendo adesso il prodotto seguo, ma che cosa abbiamo detto politicamente di nuovo dicendo una cosa del genere. Quindi sì, corriamo dei rischi, ma i rischi non sono perché c'è una tecnologia più sofisticata, ma semplicemente perché quello non è un problema politico. Lo sapete come abbiamo risolto? Chiamando Zuckerberg davanti a qualche commissione a fare atto di dolore a chi non è il capo, dire scusate, scusate. Poi però quello è la manovra di PR che permette a Zuckerberg, invece che parlare, che pagare una mezza manovra di un paese come l'Italia di tasse, ne paga un quarto. Cioè è tutto PR, cioè tutta la battaglia è fuori dai parlamenti dove si prende una decisione, ci sono tecnici magari come fare che ne sanno e che ti sanno dire qual è il problema, è questo, no? Parla di PR, è PR corporate di grandi aziende come Facebook, e poi di PR si deve farsi eleggere e fa la legge sul cyberbullismo, così la sua faccia sarà per sempre legata alla legge sul cyberbullismo. E intanto in tutte le scuole, ragazzi del quarto ginnasio, non so se giustamente o ingiustamente, non voglio dire giustamente, vengono presi per la colonna, che è messa la testa sotto il lavandino e c'è qualcuno che li prende con un video e viene messo su YouTube. Sapete prima cosa aveva fatto negli anni 60-70? La naia, cioè, prima succedeva che il ragazzino, qual è il pubblico più vasto che posso trovare dopo aver messo la testa nell'acqua, il mini waterboarding del bagno della scuola? È la classe, tutto bagnato, lo porto in classe, i ragazzi del secondo, i ragazzi del terzo, si fanno una grande risata. La tecnologia moltiplica l'umiliazione della vittima, ok? Ma rivela anche la natura del fenomeno, ce la rivela prima, questo bullismo era là, meno male, i ragazzi finalmente si scontrano con la vita reale, cioè le famiglie erano persino contenti, i nostri genitori, i nostri nonni erano contenti che finalmente c'era questo scontro con la vita sociale, perché avevamo letto Lord Jim Conrad e c'era quindi l'uomo che si formava solo sulla barca che partiva, e quindi qualsiasi classe sociale per il nostro il mozzo che magari era invece una persona violenta, cioè per quello era il battesimo del fuoco. Che cosa è cambiato? È cambiato che sappiamo di più e non abbiamo più la grande opportunità di nascondere lo sporco sotto il tappeto, e troviamo soluzioni di PR al problema. Cioè, tutti i decisori, quelli che dovrebbero prendere le decisioni politiche, si fermano a un tema di associamo la mia faccia alla legge sul cyberbullismo, e poi magari vengono pure letti. Allora, sentiamo Angelo, abbiamo gli ultimi 11 minuti per concludere. Vorrei condividere, ancora non avete, cioè pochi hanno scritto, io vi invito veramente a scrivere, se ci rimando male, peggio per voi, eh? Peggio per voi se ci rimando male, e non ho una buona considerazione del vostro feedback. Allora, a parte ringraziare i popolini di Marco per gli scritti, non ho ancora letto il libro, ma lo voglio collegare, io ieri mi sono sorbito una discussione di simpatica, vi lascio di questa, perché Quintarelli ha presentato il suo libro alla Fondazione Basso, cioè per la riforma dello Stato, che si chiama Capitalismo Immateriale, e ho notato in lui diciamo degli accenti complessivamente positivi e tendenzialmente ottimisti, e dalla discussione, non avendo ancora letto il suo libro, registro una sensazione simile. Adesso questa è in realtà poi la domanda finale che ti può porre. Io ti dico, personalmente ho l'impressione che gran parte degli intellettuali e degli osservatori sull'ondata di un ottimismo appunto tecnologico stiano anche sempre troppo tardi, tardivamente, comprendendo le potenzialità terribilmente negative, al di là di quelle positive, no? Wikipedia, la diffusione di sapere, l'accesso, la possibilità di scrivere un'email a Trump. Nessuno disconosce, nessuno di consenso non disconosce questi aspetti positivi. Ma la forza, l'impatto, la negatività che deriva invece dal governo neocapitalistico, mi darei di dire che usato un'espressione che ho trovato abbastanza efficace, che è info.plutocrati, riferendosi ovviamente alle grandi. E siamo un analista anche a livello internazionale, insomma, dire, comparativo, lamentava il fatto che la gran parte dei governi e degli stati nazionali non ha la capacità di comprendere che ormai non c'è più un conflitto in chiave paleo-marxiano tra capitale e lavoro, ma c'è tra capitale e lavoro in questi nuovi soggetti, che richiedono una chiave di lettura ancora più evoluta, più complicata. La domanda che però mi sto ponendo, io più passo il tempo personalmente da modesto osservatore, analista, ricercatore, più tendo sul campo di oscillazione tra il banale, forse, ma anche efficace, metaforico, tra apocalittici e integrati, a tendere sull'apocalittico. Perché la citazione che rispondo alla domanda che ha posto Carlo proprio ieri, che parlava di Mattarelli, dell'esperimento cinese, lui ha sostenuto che è assolutamente evoluto e che non è più un esperimento, cioè determina le politiche sociali del governo. Cioè, non l'ho chiuso, non so quanto sia poi Pianelli, perché è una sua opinione. Allora, è evidente che noi stiamo perdendo completamente il controllo delle nostre individualità, e mi sembra che, per esempio, anche a livello italiano non ci sia, al di là dello sforzo che poi ha fatto Quintarelli, il gruppo interparlamentare per l'evoluzione tecnologica, quello che poi ha fatto l'Agit, quello che ha fatto Flavia quando ha promosso qualche anno fa gli stati generali dell'innovazione, eccetera, eccetera. Però, ecco, io mi sono permesso adesso di dire a Flavia. Flavia ha denunciato questo piccolo episodio come una cosa gravissima, sono perfettamente d'accordo con te, ma noi abbiamo un ministro dell'interno, che è vicepresidente del Consiglio, che ha fatto campagna elettorale in perfetta violazione delle normative, ed abbiamo un ministro, un presidente del vicepresidente del Consiglio, appunto, che bacia il crocifisso. Tutto questo però è l'effetto, esattamente, cioè la deriva populista, la superficialità, il livello attenzionale è sempre più basso dei cittadini oltre che dei consumatori, è drammatico. Allora, su questo chiudo. Secondo me il ruolo dello Stato, il ruolo residuale che la mano pubblica deve avere è quello di sensibilizzare la gran parte dei cittadini, degli studenti, dei giovani su tematiche che, come dicevi te qua, cioè probabilmente se avessimo un quindicenne o ventenne si domanderebbe: ma che problema c'è? Io sento la musica che voglio, vedo i video che voglio, è tutto gratis, qualche volta prendo un ampio, cioè noi stiamo parlando, questa è un'elite di osservatori critici che è completamente sganciata. Allora, chi può fare questa attività di ricostruzione dal basso? Giustamente lo Stato, io penso anche la RAI, ma questo è il discorso. Allora, una battuta su Angelo Veloce, poi anche con il Angelo rappresenta plasticamente quel mondo, diciamo, perdona, inadeguato degli esperti dei media di un secolo. E di questo cosa il Novecento, in fondo lo rivendica, quello che fa l'apocalittico, perché è chiaro, non è come di tempo nel tempo più andare a giocare una partita, non hai giochi come oggi. Uno dei migliori amici, Franco Lorenzoni, maestro elementare straordinario, che si preoccupa del fatto che i ragazzi, cyberbullying, ragazzi, voi maestri elementari, mi finisco lui, per due decenni, per una generazione e mezza, non avete lavorato su questi ragazzi, con questi ragazzi, e oggi vi lamentate, e che piano. Detto questo, non è mai troppo tardi, chiediamo al maestro Manzi, perché è possibile e deve essere possibile, anche perché andiamo alla chiusura delle ultime due delle battute, eccetera. Non è che troveremo la risposta a capire in che modo sanare questo guaio, no? Tra il sistema dell'inadeguatezza e i grandi paragoni tecnologici che vogliono, non dico farci la pelle, vogliono fare i soldi, magari anche con noi. Il social credit cinese non è così pessimo, anche se a me fortemente inquieta, cioè, l'idea che ciascuno venga tracciato per trovare soluzioni legate alla pubblica amministrazione, trovare lavoro in un mondo come quello cinese, ragazzi, quello è la dittatura comunista, cioè, social credit, la cosa preoccupante del social credit cinese è appunto che è gestito da una istituzione a cui il popolo ha dato il potere di esercitare la violenza, perché per esempio c'è il potere giudiziario. Cioè, noi quando parliamo di potere giudiziario, il sistema delle pene, per esempio, cioè, stiamo dicendo che abbiamo delegato legalmente il potere di qualcuno, anche nelle democrazie, esercitare la violenza. Ma la cosa grave, e su quello io posso dire che sono al 100% d'accordo, è che sia proprio nelle mani di uno Stato questo meccanismo. E di uno Stato d'altro così grande e così potente, poi noi non potremo mai arrivarci, perché quella è una cultura diversa, era confuso, quello che vuoi tu. Ricordare a tutti che in Cina non si può. In Cina non si può farlo. Okay. Allora no, però ecco, quello che volevo dire per rispondere alla sua visione, tra l'altro nella quale io mi riconosco, è che io non sono affatto integrato, forse non sono nemmeno un apocalittico, dico soltanto che il mondo prima di internet non è integralmente parte della soluzione e non è integralmente parte del problema. Il mondo dopo internet, quindi internet, non è parte del problema e non è integralmente parte del problema, non è integralmente parte della soluzione, perché se continuiamo a vedere tutto come una dicotomia dove si stava meglio quando si stava peggio, metti via quel cellulare, il titolo di un libro su internet più venduto in Italia prima che devieni di Valicco, ma perché quel libro è un best seller? Perché sì, entri in una libreria, entri in una libreria della piramide di Cacciullo. Perché non è solo se no, volevo inserisco no, chiudo perché era quello che volevo dire. No, io parlavo di Cazzullo, parlavo dell'altro. Sì, no, è uscito prima. No, io parlavo dell'altro. Prima era il cioè, è chiaro che è un vecchietto, che un nonno che alla cena di Natale, gli ultimi tre Natali, è stato completamente ignorato dai nipotini perché stavano sul cellulare. Cosa regala un nipotino a Natale? Il libro il cui titolo è Metti via quel cellulare, che è il passo dopo, è dire a tutto il mondo degli interlocutori culturali: ragazzi, questa è la visione di internet di uno di voi. Mi sono inserita sul semplice, sul titolo di Cazzullo, proprio perché era l'ultima riflessione che volevo fare. È che inutile che ci giriamo intorno e rifugiamo da un concetto fondamentale, dobbiamo affrontare la complessità del sistema e del momento storico che stiamo vivendo. Non perché in passato sia stato tutto più semplice, ma c'erano meno elementi che andavano uno sull'altro, si andavano ad influenzare l'uno sull'altro. Oggi ci sono. Bisogna affrontare le cose con la complessità. C'è stato anche un po' l'inganno, secondo me, mi è piaciuto che hai parlato di evoluzione tecnologica e non di rivoluzione tecnologica, che sono due concetti diversi. All'inizio hai detto così, no Carlo, che ti faccio anche in giro. Perché appunto un'evoluzione è più lenta di una rivoluzione. E noi stiamo attraversando una cosa che sembrava una rivoluzione, invece in realtà è un'evoluzione lunga e complessa che va ad interessare l'online, l'offline, la vita sociale, la vita professionale, la vita privata, l'Europa, ma anche la Cina. Non ci possiamo più permettere di dire: io il Confucio non lo capisco. No, cioè oggi dobbiamo vedere insieme tutti. Commentare gli esiti di quella che viene venduta come una rivoluzione, in cui ora possiamo vedere gli esiti, e invece i problemi in cui siamo sono i problemi del fiume sempre più profondo e melmoso in cui stiamo affondando, cioè il problema della guerra che si è aperta su tanti fronti. E anche ne parlavamo con Carlo quando parlavamo del macro. Il macro è una guerra, è una guerra di una certa cultura contro un'altra cultura, si è aperto un fossato, e qui i problemi che vediamo sono i problemi di una guerra che però c'è venuto un suicidio necessario, l'hai chiamato a questo posto. Il suicidio è quello di un museo che si è suicidato per creare un altro ambito. Ora noi siamo nel guado, e quindi quello che si affanna a commentare con gli esiti non sono gli esiti. Fermiamoci un attimo, poniamoci molte più domande complesse e cerchiamo di dare su meno risposte semplici, anche se i libri che si vendono di più sono quelli con le risposte semplici. Anche perché è arrivare il mondo non è cartesiano. Cioè, nel senso che il mondo è più come quel fiumiciato, come il musetto che diceva adesso, che va sottoterra e crea una vera casa e poi spunta da un'altra parte. Il mondo è più così che come un sistema misurabile e legittimo, ma niente contro la matematica. Però mi sono occupato di geodetica, però vedi anche mi sono occupato, no, di chi ha misurato la terra. Ho fatto i suoi passi, si chiama Secchi, che è un gesuita del 1800, che ha trovato il punto in Antartica per misura, mica una stupidaggine, cioè, a stabilire che quello era il punto dove si poteva misurare, cioè noi ci misuriamo con niente dov'è, massimo. Io non sono terapeutista, alzo subito, ok, però mi piace poter pensare, ho messo accanto a lui, accanto alla parola che ha scritto Massimo sui terapeutisti, Inception, avete visto quel film di Christopher Nolan? A me piace un casino, cosa voglio dire? Nel senso che sicuramente nell'arco dei prossimi decenni, non dico che accadrà qualcosa perché arriva un asteroide e sbaccia nel cielo, si sta proprio per capire 3 minuti in più, 3 minuti in più. Questa cosa che è interessante, che il digitale con tutte le condizioni inedite verso cui ci sta portando, ci predispone al possibile e perché no anche all'impossibile. Questa cosa è molto interessante. Mi piace arrivare a quel momento senza essere diventato schiavo. Cioè, mi piace poter pensare che tra 30 anni, tra 20 anni, che avete presente la realtà di sesso, altro che terrabbiata, cioè la realtà del vissuto è così, cioè hai, come dire, la fisica quantistica dietro l'angolo. Mi piace poter pensare che questo accada. E secondo me accadrà qualcosa di simile, non so bene come, quando e perché, ok? Detto questo, mi stai seguendo? No, che non mi stai seguendo. No, quindi cosa sta dicendo questo che mi cambiano le prospettive? La cosa che è interessante è che questa cosa, se ci pensate bene, davanti ai nostri schermi, le cose che vediamo di più al giorno, al di là delle... Non so cosa vediamo di più al giorno sugli schermi o le facce dei vicini o per strada, ma di fatto sugli schermi già accadono cose di questo tipo. Ci sono interazioni improponibili e non impossibili da contemplare fino a 15 anni fa. La realtà virtuale, non so che io nel 91 l'ho presentata, tra l'altro noi l'ho portata fino a Reggi, e va sicuro una volta che mettevi quella roba lì, sballavi completamente. Detto questo è concludiamo. Oltre il rumore, secondo me come titolo e secondo me determinante, perché c'è anche svincolato il rumore, è sì un problema, ma neanche tanto. A chi piace la techno, il noise? A me sì, ad esempio. A me piace il rumore. Luigi Russolo, l'intona rumore, il futurista per me è un eroe nazionale, cioè, stranamente non ha un monumento, cioè è uno dei musicisti più intelligenti della storia d'Italia. Luigi Russolo, quello che ha inventato l'intona rumore. Cosa voglio dire? Il rumore non è per forza una cosa negativa, dipende come l'eserciti, se lo usi come arma impropria per poter fare casino, come la disinformazione di regime e tutto il resto. La parola è ancora più figa che oltre. E su questo vale la pena di dire a fotografare le nostre parole e magari o su Twitter con Cancelletto Urban Experience, oppure anche su Facebook, taggare nel caso di altri infanti, vediamo di fare anche un record di quello che ci siamo detto. Grazie. No,